musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. Buonasera a tutti i radioascoltatori di CRM più Radio sui 101.4 con Tony e Santi con i mitici anni. Buonasera. Non ti ho lasciato parlare. Vabbè, dai. Ti ho anticipato. Recupererò dai. Dopo, dai, coraggio. Oggi domenica 21 luglio 2013, ancora qui sulle antenne di CRM, per meglio dire sulle frequenze di CRM e Piradio, per il nostro consueto incontro della domenica seria con i mitici anni. Che dici Santi, oggi... Domenica piena, domenica... Ti vedo stressato questa sera. Le alte temperature evidentemente ci stanno un po'... come dire, bastonando, ma d'altro canto l'estate che abbiamo tanto desiderato finalmente è arrivata. Parcheggi sul lungomare pieni, spiaggia praticamente zeppa di gente. Sì, affollatissima, devo dire. Non si vedeva la sabbia oggi, era un carnaio proprio, scusate il termine crudo, ma era proprio l'unico modo per definirla. Mi trovo pure là comunque oggi, guarda... Incredibile, proprio non potevo mettere neanche l'asciugamani comunque. L'anno prossimo stanno già brevettando un nuovo sistema per andare a mare. Sì, ci saranno dei supporti per l'asciugamani in verticale e ti appoggerai l'asciugamano per tenere un pochino per prendere il sole piuttosto che stare distesi. Hanno scoperto che si occupa meno spazio stando in verticale, quindi sarà un brevetto che partirà qui direttamente dalle spiagge di Cefalù e probabilmente si estenderà anche altrove. Perfetto, un buon brevetto comunque, sì, voglio dire. Come no, saremo i primi. Bene, che facciamo? Direi di cominciare subito con la nostra selezione musicale. Stasera partiamo con qualcosa di classico, qualcosa di che risale al 1977 e si riferisce a un film molto, molto visto, molto apprezzato, che si intitolava Saturday Night Fever, ovvero sia La febbre del sabato sera. Naturalmente stiamo parlando della colonna sonora. Sì. Sono i Bee Gees, Stayin' Alive. Perfetto. Comunque se qualcuno comunque ci volesse portare anche un caffè, lo accettiamo, eh. Che dici, dato che... Questo è accattonaggio puro, Tony, non possiamo... vabbè, è da spiegare, non abbiamo avuto il tempo di passare dal bar, quindi la signora di giù, prima di portarci la lauta cena, che potrebbe anche elargirci cortesemente e caritatevolmente un paio di caffè, va bene. Comunque, passiamo partiamo qui col primo brano. Abbiamo inizio, ok. Pronti, via, ci siamo. Time's up, man. La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. Right back around. It's a rainy day. It's a rainy. Telephone, you never know when it's gonna ring, but when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. Siamo sempre noi con i mitici anni. Era la voce di Alexia, It's a Rainy Day. E passiamo a qualcosa di diverso. 1984, se non vado errato. Sì. Un gruppo synthpop di origine norvegese che ascoltiamo nel suo brano di maggiore successo. Un gruppo che poi si estinse, si concluse, fu uno scioglimento annunciato dopo un ultimo tour nell'anno 2010. Stiamo parlando degli AA. Un brano che si intitola Take On Me. To find you. qualcosa di diverso, qualcosa di italiano, adesso qualcosa degli 883. Come dunque, come mai? Dimmi Santi. Mister Max Pezzali. Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà il sogno di sentirsi dentro al film. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità. Ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza pregando per un sì. Gli amici se sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio. Perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai, all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità. Ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai, ma chi sarai a fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza pregando per un sì. Dimmi come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza pregando per un sì. Come mai, Santi? Come mai? Come mai? Bisognerebbe chiederlo a Max Pezzali. Ancora musica che non è certo italiana. È un cantante che viene da Trinidad, è Mr. Billy Ocean. Get Out of My Dreams, ancora su CRM P Radio per i mitici anni. Who's that lady? La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw. Splendida voce di... Chi era? Aspetta, l'ho dimenticato, chi era? Céline Dion. Ah, vero, Céline Dion, ma come? No, sì. Non è possibile, non ci credo. Sì. Non ci credo. Intanto in sottofondo arriva Mr. Billy Joel, She's Got Away. I don't know why it is, but there doesn't have to be a reason anyway. got a smile that heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way of talking. Don't know why it is, but it lifts me up when we are walking anywhere. She comes to me when I'm feeling down, inspires me without a sound. She touches me and I get turned around. She's got a way of showing how I make her feel, and I find the strength to keep on going. She's got a light around her. Oh, and everywhere she goes, a million dreams of love surround her everywhere. She comes to me when I'm feeling down, inspires me without a sound. She touches me, I get turned. Got a smile heals me. I don't know why it is, but I have to laugh when she reveals me. She's got a way about her. I don't know what it is, but I know that I can't live without her anyway. Siamo sempre noi qua su CRMP Radio con i mitici anni. Santi, continuiamo. Tutto a posto? Sì, sì, sì, sì. No, ecco, non fischia più niente, perfetto, dai, visto che sei alla cuffia. Tutto in diretta, tutto senza rete. Continuiamo con la nostra musica, questa volta gli Chic, Good Times. I want to live the sporty life. Good times. molto molto eleganti, direi veramente chic. Era Good Times. Ancora musica, naturalmente, siamo qui per questo, è il caso di dire. È Mr. Bryan Adams, è un brano molto molto tranquillo che lascia sognare, qualcosa che parla di paradiso. Heaven, Bryan Adams. La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. Chaka chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan. Let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arms, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I'm making more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. Let me rock you, that's all I wanna do. Shaka Khan, let me rock you, let me rock Shaka Khan. Let me rock you, cause I feel for you, feel for you. Diventa fan della nostra pagina Facebook, cerca CRMP Radio e clicca sul bottone mi piace. Ti piace? Sì. Bellissimo. Bene, tanti, bene, bene, bene. Ogni tanto scherziamo un po', dai. Vabbè, dai, gerani, gerani, adesso andiamo a dare l'acqua ai nostri gerani che tutta la settimana non gliela dà nessuno qui a CRM, ce li stanno proprio facendo seccare questi gerani. Meno male che ci siamo noi, dai. Sì, no, i pollici verdi di CRM e Pirradio. E andiamo avanti con la nostra musica nel frattempo, quando sono le 20 e 58 minuti qui a CRM, i Delegation con You and I. kissed, I realized how much I missed. I felt the fire when you came. Didn't you feel the same? Reaching out for your hand, hoping you understand. Delegation, you and I. Sì, sì. Sì, Delegation. Continuiamo con la nostra musica con una cantante che a 17 anni fece parte del famoso duo Sonny & Cher insieme a Sonny Bono. Ha vinto innumerevoli premi come attrice, un Emmy, un Golden Globe, un Oscar e un Grammy Awards. Stiamo naturalmente parlando di Cher. Il brano Believe, un non grosso successo targato 1988, ancora sui mitici anni su CRM con Tony e Santi. Grazie. siamo sempre noi, i mitici, Santi e Tony. Qualcosa di italiano finalmente, è da un po' che non ascoltiamo. Stiamo parlando di un grosso cantautore italiano che tre generazioni continuano ad ascoltare. Il suo disco più venduto è stato La vita adesso, con milioni e milioni di copie. Un brano che è già cominciato così, boh. Comunque è un brano che scrisse per suo figlio. Stiamo parlando di Claudio Baglioni con Avrai, Claudio Baglioni. È un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare, e pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate. Un treno per l'America senza fermate. Avrai due lacrime più dolci da seccare. Un sole che si uccide e pescatori di velline. E neve di montagne e pioggia di colline. Avrai un legnetto di cremino da succhiare, avrai una donna acerba e un giovane dolore, viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore, avrai una sedia per posarti e ore vuote come uova di cioccolato. Ed un amico che ti avrà deluso, tradito, ingannato. Avrai il tuo tempo per andar lontano. Camminerai dimenticando, ti fermerai sognando. Avrai la stessa mia triste speranza. E sentirai di non avere amato mai abbastanza. Se amore avrai parole nuove da cercare quando viene sera, e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera. La prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di tosse, Natale di agrifo. La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. We'll be right back. Aria Streets, qui è ancora su CRMP Radio 601.4. Qualcosa di italiano adesso, cambiamo genere, andiamo con Eros Ramazzotti e Giorgia Amarti nell'immenso per te. Ci siamo, Santi? Sì, direi di sì, fra le più belle voci del panorama musicale italiano. Poi in modo particolare amo la voce e la maestria di Giorgia. Fino a te ho aperto i miei occhi e vedo fino a te. Amarti è l'immenso per me. Anche se in fondo io non ci credo, cosa cerco non lo so, ma so che adesso sei tutto ciò che trovo io. Fammi camminare lungo le argini di una certezza, calmami le rapide del cuore. Se qualche volta so di esagerare un po', quando corro la mia vita che più forte non si può, anche se la mia testa è un via vai di fantasie, troppo perso, troppo mie, posso farcela con te. Io voglio arrivarti dentro, ora che le mani mi portano fino a te, raggiungerti in ogni senso, fino a che amarti è l'immenso. (335) 56 37 251 oppure 0921 92 32 92 i nostri recapiti telefonici per i vostri sms oppure per le vostre chiamate. Santi? Continuiamo con un gruppo che ha pubblicato 19 album dal 71 in poi, stiamo parlando degli Eagles, un loro classico, Hotel California. My head, one smell of colitas La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. Dreams are nothing more than wishes, and a wish is just a dream you wish to come true. If only myself so very lucky just to have some company to share a cup of tea with me. I take my puppy everywhere, la la la la, I wouldn't care. If only I could have a friend who'd stick with me until the end and walk along beside the sea and share a bit of moon with me. I'd take my friend most everywhere, la la la la, I wouldn't care. But we would stay away from crowds with signs that said no friends allowed. Oh, we would be so happy to be. Whoa, we would be so happy to be together. But dreams are nothing more than wishes, and a wish is just a dream you wish to come true. Whoa, whoa, whoa. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Dreams are nothing more than wishes, and a wish is just a dream. Your wish will come true. Wish to come true. Your wish will come true. Your wish will come true. Whoa, whoa. Your wish will come true. Your wish will come true. Dreams are nothing more than wishes, and a wish is just a dream. Siamo sempre noi, Santi, eh? Un po' di sonno, un po' d'abbiocco. Bene, bene, bene, bene, bene. Adesso è la volta di qualcosa di italiano, qualcosa targato 1984 con Francesco De Gregori, la donna cannone. Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò. tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne alzata, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via. Andiamo a casa, Francesco De Gregori. Sì, anche perché è un pezzo che fa sognare. Luna piena, mezza estate, qui nella nostra bella Cefalù, con questa musica di Francesco De Gregori, insomma, è proprio il massimo. Continuiamo. Ci stava proprio bene questo. Sì, continuiamo ad andare avanti. Certo, sicuramente non fa da colonna sonora, da sottofondo a tutte quelle brutte cose che purtroppo ogni tanto accadono a Cefalù, come quei ragazzi che sabato notte hanno inscenato uno scontro di, non si capisce bene se di box, di kung fu o di una scena da film di violento sul nostro bel lungomare. Io non mi permetto di dare dei giudizi, però un consiglio sicuramente sì, quello di andare, di uscire da casa il sabato sera per divertirsi, non tanto per stare lì a inscenare delle guerre fra gruppi. Cefalù non è certo Bronx e cerchiamo di non farlo diventare tale, almeno mi auguro che sia così. Nel frattempo continuiamo con la nostra selezione musicale, un gruppo svedese che risponde al nome di Europe. Il titolo di questa canzone ha un significato abbastanza strano, che sarebbe il conto alla rovescia finale, The Final Countdown Europe, ancora qui su CRM Happy Radio. Everything the same. 21:46 qui ai nostri studi di CRM più radio con i mitici anni con Tony e Santi. Ancora un gruppo anglo-americano che dal 67 ha pubblicato oltre 20 album. Stiamo parlando dei Fleetwood Mac, un brano dalle sonorità veramente delizioso. Qualcosa che si intitola Sera, Fleetwood Mac. Wait a minute, baby. Stay with me a while. Said you give me life. But you never told me about the fire. La musica più bella di tutti i tempi è su CRM con Tony e Santi. Jealous. Kate Bush con la sua Scimmia Tempestosa, Wuthering Heights. Siamo all'ultimo brano per quanto riguarda il nostro incontro odierno. Il tempo purtroppo volge alla fine. Una cantante statunitense che ha vinto con questo brano il Grammy Awards nell'anno 1982. Cantava della bellezza degli occhi dell'attrice Betty Davis. Betty Davis Eyes da King Carnes. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo stand on side. She's got Betty Davis eyes. She'll let you take her home. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. She'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. You just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you. Eccola, eccola, eccola, l'aspettavamo. La nostra sigla finale, purtroppo. Purtroppo o per fortuna, secondo i punti di vista. Dipende come la prendiamo, dai. Purtroppo forse oserei dire anche per noi, però no. Purtroppo no. Per tutti quelli a cui la nostra selezione musicale è piaciuta, il nostro programma ha tenuto buona compagnia. Per fortuna per tutti quelli che erano sul punto di spegnere la radio perché proprio non ce la facevano più a sentire questi due pazzi messi qui che stanno a annaffiarsi i gerani, a parlare della signora di giù che sta lì a torturarci con i suoi miasmi provenienti dalla cucina. Però qualcuno ne parla bene, comunque, voglio dire, almeno dai messaggi che ci arrivano qui su CRM più radio, almeno qualcuno ne parla bene, comunque. Meno male. Beh, vedo che è arrivato poco fa un messaggio con appunto, è bellissima la vostra selezione appunto discografica, quindi per la prossima volta voglio, se è possibile, questo, quell'altro. Vabbè, ricordiamoci che noi abbiamo un tempo limitato per quanto riguarda l'uscita dei dischi, che gli anni 70, 80 e 90 non possiamo andare fuori da quelli, se no snatureremmo il nostro programma. Sarà finito, è finito, dai. Bene, ringraziamo tutti, sì, lo facciamo sempre, sì, è sì, nostra sì, buona abitudine, ringraziamo tutti per il cortese e preziosissimo